veramente grandi indicazioni. Grandi indicazioni. Thank you. Thank you. Bene, siamo rientrati in diretta e abbiamo mixato questo splendido lavoro di Juan Hidalgo, che è un autore, un compositore assolutamente importante nella scena del Novecento, musicista di Barcellona che ha studiato con il grande Bruno Maderna, e anche lui ha fatto parte comunque della scuola di Darmstadt, lavorando poi successivamente con grandi compositori quanto lui, come John Cage, David Tudor. E la cosa interessante da ricordare, nel 1964 crea insieme a Walter Marchetti e a Ramon Barnes e successivamente anche ad Esther Ferrer il progetto ZAI, che era un progetto che lavorava molto, diciamo, sul neodadaismo e era molto ispirato e collegato alle opere di Marcel Duchamp. Dunque un progetto che è stato molto importante nella scena degli anni 60, e successivamente continua le sue collaborazioni, le sue composizioni, le sue realizzazioni sonore, soprattutto con John Cage fino alla sua morte. Fondamentalmente ha lavorato moltissimo con Cage, e si sente l'aspetto, diciamo, giocoso e delirante di Cage, questo aspetto appunto che ricorda molto un po' l'idea di un giocattolo sonoro, come sentiamo ancora in sottofondo un altro dei suoi brani di questo splendido album, uscito ovviamente per Nova Musica nel 1977, un anno piuttosto importante per molti aspetti. Rose Selavi è il titolo dell'album, e abbiamo ascoltato una traccia, e adesso subito ci andiamo ad immergere dentro un altro personaggio che ha attraversato la storia della Krams e della musica sperimentale italiana, e non solo, perché è un personaggio assolutamente eclettico. E parliamo di chi, caro Max? Beh, parliamo di Paolo Tofani, no, anzi, ne abbiamo già parlato, parliamo di Patrizio Fariselli, che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere. Ma dovresti più parlarne tu, com'era? Ma Fariselli, guarda, com'è non lo so adesso, perché l'ultima volta che lo incontrai sono passati ormai più di 15 anni, però quando mi trovai di fronte a questo mio mito musicale, alla fine me lo smontò subito lui stesso, perché si presentò un po' con lo stesso stile anni 70, molto molto freak, cappello lungo però tenuto dietro con la coda, e poi molto giocoso. Mi ricordo benissimo che sul palco aveva la sua tastiera, però ci giocava in sede di soundcheck, e poi si rapportava anche con questi musicisti giovani, con ragazzi che stavano dentro questa rassegna che omaggiava Demetrio Stratos. Però la cosa che mi colpì molto era la sua svagatezza e il suo essere e non essere in quel posto. Dunque questo mi colpì molto, all'epoca mi lasciò anche un po' perplesso, però poi piano piano capii e mi piacque molto l'idea di trovarmi di fronte a una persona che c'era e non c'era, e che si montava e si smontava nello stesso tempo. Dunque non si prendeva sul serio, non prendeva sul serio nulla. Mi ricordo benissimo che in alcuni momenti, proprio non di concerto, si metteva lì a suonare con la gente che si bloccava, no, dal pubblico, perché forse parte qualcosa, invece no, si metteva lui a provare a fare delle cose di classica, poi cominciava a partire con delle musichette tipo per bambini. Era così, proprio matto, ma nel senso buono. Aveva mantenuto quello spirito che gli altri, in parte, insomma, alla fine degli anni 90 avevano incominciato già a perdere, si vedeva. Lui era ancora rimasto, sembrava appunto in una bolla genialoide, anche un po' pazzoide. Sì, anche perché all'epoca non era ancora rientrato Tofani appunto, no, dentro gli aria. No, no. Stai parlando di un festival dove hai suonato anche tu, no? Vabbè, questo togliamolo da... Un omaggio a Demetrio. Sì, sì. Beh, comunque parlando di Fariselli, non è stato appunto soltanto un punto di riferimento per te, ma per molti che poi hanno cercato di approcciarsi, no? Sia in termini musicali, a livello strumentale, ma anche proprio di riferimento per quanto riguarda gli ascolti e poi anche appunto le aperture date da queste possibilità di ascolto, date da, chiaramente, dagli Aria, ma anche appunto da un disco assolutamente eccezionale come Antropofagia. Sì. Anche qua il gioco pop di Sassi, e appunto quest'area anche che da cui accennavi un po' così tra gioco divagante, no? Ci sto, non ci sto, mi perdo, mi ritrovo, no? E Antropofagia vive di queste quasi sospensioni, quasi un disco keijano in questo, però nel keijano quello Cage appunto più dada, giocoso, infatti, no? Dadaista. Esatto, quello che sembra veramente conosciamo un disco, prima o poi dovremmo mettere tutto Rainforest, Rainforest. Disco folle, dove mogugnano lui e del Tudor. Quella è incredibile. Diventa veramente una cosa assurda, anche proprio in termini di ascolto. Uno si chiede cosa sto ascoltando. E anche questo è un grande gioco. Questo è un disco Antropofagia che gioca molto, ad esempio inizia con Rosbif, un pezzo che si chiama Rosbif per piano preparato, come buona parte poi tra l'altro del disco, ma ci sono dentro elementi veramente anche surreali legati appunto a questo suono che si riverbera nell'ambiente. E il pezzo che andiamo a ascoltare è 46, Re Blocks, gioca proprio sulle armoniche, sulle risonanze date dal rilascio dei tasti del pianoforte, e un po' anche se vogliamo in una maniera forse ancora più così astratta rispetto anche a un altro grande disco che era di quel più o meno quel periodo, Egitto prima delle sabbie di Battiato, che appunto giocava sulle armoniche, le risonanze, anche provocazioni, tra l'altro una su tutte date dalla Cramps, non di diverso, neanche di nuova musica, ma quella del disco Tutto Uguale. Ah, sì. Chi era? Adesso mi sfugge anche a me. Dopo siamo capiti fra di noi, ma esatto, non abbiamo spiegato. Dopo ve lo diciamo anche noi, un disco Tutto Uguale, anche lì il gioco diventa quasi perverso, ma appunto andiamo a sentirci questa Antropofagia di Fariselli, veramente un piano preparato magistralmente, con tanto gioco, con tanto anche proprio altrove ricercato, ecco, e trovato, è trovato. Antropofagia 46, Red Blocks. E siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato, abbiamo mixato, diciamo, un autore indubbiamente molto molto interessante, Miguel Angel Coria, da En Rouge et Noir del 1976, uscito ovviamente per Nova Musica della Cramps, autore che si muove molto su una scia chegiana, ma indubbiamente la cosa interessante che ci ha fatto anche collegare quest'autore con Fariselli è questo aspetto anche molto interessante del trattamento sonoro del piano e gli effetti che vengono utilizzati. L'abbiamo sentito anche nell'apertura dello splendido lavoro di Fariselli di Antropofagia, il momento iniziale dove appunto gli accordi pianistici vengono dilatati, amplificati, modificati attraverso un effetto sonoro. E così lavora anche Miguel Angel Coria, ma d'altronde tutti questi autori, seppur sono stati inseriti dentro due collane parallele e in parte formalmente differenti, in realtà poi sono collegati dallo stesso filo rosso, che insomma è un po' che ci manca, no? Beh, il filo rosso, abbiamo ritrovato il fil rouge, Il fil rouge, appunto. Oltretutto in questo disco c'è il rosso e il nero, no? En rouge et noir. E dunque c'è anche un collegamento in questo di Miguel Angel Coria, questo filo rosso che univa tutte le produzioni della Cramps, i lavori e le sperimentazioni di questi autori, di questi progetti, uniti diciamo dalla stessa matrice, anche se poi le collane si differenziavano. Indubbiamente Nova Musica si concentrava maggiormente all'aspetto più legato alla musica contemporanea, a un certo tipo di sperimentazione elettronica. Diverso era un po' più aperta, diciamo, come sperimentazione, ma appunto alla fine molti di questi autori intersecavano, no, le varie collane della stessa Cramps. E oltretutto anche elaborando, no, Max, questa trasmissione di stasera, abbiamo anche verificato quanti materiali esistono dell'etichetta Cramps che non sono ancora passati, almeno attraverso il 451, che in futuro sicuramente cercheremo di inserire, anche perché ci sono dei molti lavori, ad esempio poppeggianti con questa idea pop tra virgolette molto aperta, che sarebbe interessante riascoltare e far riascoltare alla radio in questo periodo a distanza di molti anni, perché ci sono molte cose estremamente avanzate. Sì, beh, poi l'idea dell'avanzamento in termini appunto di avanguardia, di porsi come avamposto appunto per lanciare appunto nuove musiche, diversità, crampi. E crampi che ovviamente giocavano tanto su quell'immagine iconica eccezionale che era quella del Frankenstein, quindi sì, della combinazione di elementi apparentemente morti, non più poi tali, perché resi vivi attraverso il movimento musicale creato dalla Cramps, che poi era assolutamente dialettico con quello che stava avvenendo. Quindi anche lì il pop, che non è il pop dei nostri giorni, che fondamentalmente vuol dire successo, questo poi sì, è quello che è diventata la parola pop negli anni appunto della Cramps. Pop voleva dire anche, tra parentesi, popular, appunto con pop in grande, ular tra parentesi, proprio nel creare una diversità, forse riprendendo insomma uno slogan dell'epoca, la famosa avanguardia di massa, eccezionale come concetto, e probabilmente un concetto che era molto chiaro a Gianni Sassi, sia appunto dentro la collana Diverso. Bene, poi alla fine quando poi si parla appunto di pop e della Cramps, si parla di un nuovo modo di intendere la faccenda, e questo, in questo senso sono assolutamente avanzati, e danno chiaramente poi un ponte a generazioni che verranno anche rispetto a questo. Questo è oramai è, come dire, assodato, perché ci sono, come dire, dei grandi grandi cantieri che non, poi in realtà, anche se sembrerebbero chiusi, non lo sono affatto. No, no, anzi, assolutamente, sono dei serbatoi incredibili di creatività. E finendo appunto con Diverso, appunto abbiamo fatto questo gioco qua di tra Diverso e Nova Musica. Finiamo con una punta di diamante, uno dei grandi punti di riferimento del jazz d'avanguardia italiano, Mario Schiano, il napoletano, e con appunto anche momenti appunto di follia napoletana, di quel gioco partenopeo appunto che tante volte ha attraversato quella città. Tra l'altro, te la lancio lì, tu dimmi, dicevi Cramps, dimmi. Mi ricorda quello lì che sta a Bologna, da queste parti. È vero. Dimmi. No, ti dico che si potrebbe anche fare addirittura uno specialone sui napoletani degli anni 70, tirando fuori grandi cose come Tamburo di Tony Esposito, ad esempio. È vero. Faccende, insomma, che però abbiamo anche attraversato, magari non dentro al blog, e quindi magari potrebbe essere anche il caso, insomma, di parlare di napoletanità. E con Mario Schiano appunto chiudiamo la faccenda. Free jazzista, avant jazz appunto eccezionale, partecipato dentro anche al movimento internazionale del free e delle musiche creative, con Sam Rivers, con collaborazioni con Alessi, Barbieri, Cherry, quindi insomma si sta parlando di grandi punti di riferimento. Tra l'altro è stretto collaboratore anche spesso di musica elettronica viva e Nuova Consonanza, e poi dell'Italian Instabile Orchestra, anche qua un gioco insomma decisamente divertito e divertente, appunto, di Schiano, che andiamo a trovare da And This All Star, che inizia con un omaggio a Duke Ellington, poi si trasforma con elettroniche free vari, un disco multiforme veramente, dalle tante facce, dalle tante sperimentazioni linguistiche, seppur con una chiara, insomma, visione free jazzistica. Salutiamo, caro, che dici? Sì, ma non tanto perché non tanto per l'ora, non ti giustifichi, ma perché sto morendo qua in regia. Sciolto. È una roba. No, mi sta appannando la vista addirittura per il caldo. Allora, non so, chiediamo a qualcuno di venire qua, di portarti. Ma magari un po' di fresca, come si dice, un po' di, come di refrigerio. Ma c'era un termine, abbeveraggi. Una bestia, sì. Mi abbevero. Adesso sarei capace anche di buttarmi in una sorta di quelle per le mucche, sai, con i contenitori d'acqua per le mucche, la vasca bovina, mi viene in mente la montagna, quando andavo a fare le camminate in montagna d'estate, quando stavo bene. E andavo e vedevo giovane, questi posti forti e splendenti, e vedevo queste vacche che giravano, queste mucche, e c'erano questi, come cavolo si chiama, i contenitori da bere, queste vasche bovine e tante volte appunto dicevo, ma guarda che bello qua con le vasche bovine, poi andava a bere non quell'acqua lì, però andava a bere l'acqua delle sorgenti, insomma, abbeveratoi, insomma, per le mucche. Sì. Volevi bere lì? Avrei voluto bere lì, diventare un po' mucca, mucca, però un po' così, un po' strana, un po' sorniona, un po' ferma anche. Un po' bloccata, l'occhio sempre un po' là. Beh, interessante, per finito con le mucche, secondo me è indicativo. Ma mucche non vacche, insomma. Ecco, mucche non vacche, mucche. No. Va bene. Allora, noi abbiamo, ovviamente, chiuderemo adesso con questo grande musicista, autore napoletano. Tra l'altro ha lavorato anche con un tuo corregionale come io lo considero grande, non, poi ogni tanto insomma, Andrea Sentazzo, no, assolutamente, ma ha fatto delle cose splendide Sentazzo, per l'amor di Dio, no? Assolutamente, per l'amor di Dio, per l'amor di patria, per l'amor di patria, sì, anche d'esercito, vabbè, chiudiamo, alla vecchia ormai proprio. Chiudiamo proprio alla vecchia qua, se qualcuno dei nostri affezionados ci ascolta e dice cavolo, sono tornati com'è 10-20 anni fa, no, invece non è così, esagerare, che quando si danno i vecchi qua 80 anni fa non si è neanche ce ne accorge. In realtà abbiamo anche 100 anni, no? 150.000 anni, mi sento 150.000 anni, però al contrario, in avanti, in avanti. Non si sa dove andiamo, però 150.000. Allora, ovviamente vi ricordiamo di mantenervi sempre collegati su Radio Città Fujiko, anche perché avrete sentito, ascoltatori di Radio Città Fujiko, che da molti anni ormai noi portiamo avanti la bandiera della sperimentazione e che la radio si sposterà fisicamente. Mi sembra l'altra domenica. Infatti mi sto rendendo conto anch'io che sto parlando un po' alla Marenco. Però una delle grandi idee che vorrei 70, sì, diciamo. Una delle grandi idee che vorrei portare avanti in futuro, proprio all'interno di 451, coinvolgendo anche te. No, non solo l'intersezione, uno speciale di 451 come quello di stasera, nella prossima stagione radiofonica, è riuscire a invitare o personalmente o anche in collegamento radiofonico Mario Marenco, perché è ancora in vita, c'è questo. Sì, speriamo insomma che viva ancora molto. Però, sì, dico, starà bene. Boh, sì. No, io l'ho visto in ultime video, ultime interviste. Ancora ultime... brillante. Sì, sì, 2-3 mesi fa l'ho visto assolutamente delirante come allora, sempre. Allora, qua... Sarebbe bello, così si parla un po' di altra domenica, di sperimentazione televisiva, radiofonica, musicale. Lo facciamo delirare. Lo chiamiamo anche tu. Insomma, tu sei fondamentale. Con Marenco, certo. Sono un po' Marenco anch'io, ma in parte sì, potresti essere un alter ego di Marenco, dunque secondo me è interessante, un figlioccio un contraltare, contromensola, contro qualsiasi contromensola non è mai, ma Marenco secondo me sarebbe molto contento, poi se gli spieghiamo che cosa facciamo è ancora più contento sicuramente, sì. non viene proprio. Va bene, allora buon'estate anche a te caro, e buona estate a tutti gli ascoltatori, e ovviamente riprenderemo le programmazioni di 451, frammenti sonori di 451 intersezioni nella prossima stagione radiofonica, che partirà probabilmente fine settembre, inizio ottobre. Sì, tu anticipi sempre, perché vuoi fare veramente la scuola. Così. Allora, fine ottobre, inizio novembre. No, no, ottobre, tu sì un po' più largo, se no poi se non iniziamo a fine settembre facciamo sempre facciamo così, le solite figure mereghine. Allora, facciamo la testa al toro. Comunque, ecco, in ogni caso, iniziamo almeno il primo novembre o il 2 novembre. Il 2 novembre è festa, sapete di chi? Perfetta. Noi ci siamo. Noi ci siamo, qualsiasi cosa succeda. Il 2 novembre iniziamo. Ci sentiamo. Comunque, per cui se non ci trovate in radio ottobre o settembre, a novembre ci siamo. Quindi buona estate, ci sentiamo sicuramente ai morti. Ciao. Buonanotte. Ciao cari. Thank you.